notte, il cielo di stanotte ti mette da tremare. Il mare di stanotte promette male, il cielo di stanotte minaccia male. Queste mani, Maria dei Saraceni, benedici questi remi. Maria, Maria del cielo, rinforza queste vele. Maria, Maria dei Santi, benedici i naviganti. Sola, sola, narò un secondo sola. Sono un militare, non so se sta a tornare. Sola, sola, Margheri, non sei consola. Sono mare, rare, notte di stannanzo mare. Se venisse la tremura, chi gli offri te non ha paura. Se venissi o malauco, preveno a chiattura, ma c'è veno prende assai, che l'umare porta guai, ma c'è vena preda porta, che l'umare porta morte. Sono militare, non si sa se sta a tornare. Se venisse la tremura, che gli offri te non ha paura. Se venisse o malaucore, che la premeno a chiattura. T'ammuriata da quest'area, lontana il fortunale. T'ammuriata a mare nero, mal di cuore. Sola, sola, andarò, non sei consola. Tu sono militare, non sei sa se sta a tornare. Sola, sola, Margheri, non sei consola. Tu sono marinare, notte di stannanzo mare. Sola, sola, andarò, non sei consola. Tu sono militare, non sei sa se sta a tornare.